la versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, buon mercoledì 7 di maggio, sono le 16.34 primi e beh, a me sono le 35 primi oramai, quindi diretta di studio Radio 24 di Milano. Vado subito al punto per indurvi a dirci come la pensate all'800 24 00 24. Oggi parliamo del piano industriale Fiat Chrysler Automobiles illustrato ieri da Marchionne negli Stati Uniti, e la domanda che vi faccio è: ci credete, non ci credete, ci sperate, non ci sperate? Però ci dovete dire in base a che cosa, allora, se ci credete e ci sperate. Voi direte l'alternativa qual è, quella di diverso dal credere e sperare? Beh, l'alternativa è quella di riflettere su quello che abbiamo visto negli anni alle nostre spalle, perché innanzitutto ricordiamo che questo è il nono piano industriale di Sergio Marchionne in 10 anni, il no. E se c'è una cosa che mi colpisce vedendo i grandi giornali italiani è che ogni volta, anche al no in 10 anni, non è che si ricorda al lettore, all'ascoltatore eccetera quello che c'era scritto negli 8 precedenti, la quantità di obiettivi mancati, il gap tra le dichiarazioni e quello che è realmente avvenuto. Certo, c'è stata la terribile crisi, certo la Fiat che ha preso Marchionne nel 2004 era in fortissime difficoltà, lo era di nuovo nel 2008 dopo 2 anni che avevano un po' illuso tutti con strepitosi risultati di utili nel 2006-2007, tutto quello che volete voi, ma sapete, nell'indicare gli obiettivi al mercato poi il mercato se li ricorda, e infatti forse è anche per questo che la Fiat perde più del 9% oggi in borsa. Per parlare di tutto questo, ma diteci come la pensate voi, e per approfondire il piano nel quadro però della storia degli anni che abbiamo alle spalle, ho in studio un ospite di cui sono molto felice oggi, perché il libro che ha scritto e che troverete dal 9 di maggio nelle librerie è quello che considero, io personalmente posso sbagliare, potete non fidarvi, ma di tutti i recenti libri usciti dedicati alla Fiat, e in cui c'è sempre un eccesso di enfasi adulatoria nei confronti dello straordinario successo di Marchionne che ha preso la Chrysler e quindi ha risolto il problema della Fiat, tutto quello che volete voi, ma questo libro qua invece io ve lo consiglio perché è una ricostruzione giornalistica di quello che è avvenuto, cifre alla mano, in questi anni, che consente a chiunque, anche se non è uno specialista del ramo, di porsi secondo me alcuni legittimi, giusti, sacrosanti interrogativi. Il libro che trovate tra 48 ore per comprarlo si intitola American Dream, così Marchionne ha salvato la Chrysler e ucciso la Fiat, l'editore è Chiare Lettere ed è con noi oggi pomeriggio Marco Cobianchi. Buonasera a tutti. Grazie. Marco Cobianchi è un giornalista, Panorama, in questi anni, Avvenire prima, e partiamo un pochino da qualche numero, ne troverete non solo questi ma tantissimi in più in American Dream di Marco Cobianchi. Allora, ieri Sergio Marchionne ha promesso cose stratosferiche, cioè ha promesso entro il 2018, in altre parole, un aumento del fatturato della somma di Fiat e di Chrysler superiore al 50%, questo significa passare da poco più di 4 milioni di auto a oltre 7 milioni nel 2018, e questo piano i media italiani lo hanno letto in una maniera così univoca e priva di enfasi che, se sfogliate i quotidiani stamattina, mi ha molto colpito, ho sorriso, il totale degli investimenti secondo il Messaggero è di 48 miliardi, secondo Repubblica è di 50 miliardi, secondo la Stampa è di 55 miliardi. Poi capite che quando i nostri colleghi partono con 7 miliardi in più o in meno di investimenti, che volete che siano 7 miliardi più o meno? No, significa che forse non c'è il giusto atteggiamento. Non sto criticando nessuno, non me lo permetto, però intanto andatevi a vedere i 3 giornali di oggi e inizierete a grattarvi la testa. Questo stratosferico aumento di fatturato e di utili, ricordando che nel 2013 la Fiat in quanto tale ha perso più di 900 milioni di euro, mentre Chrysler ha fatto il doppio invece di utili, tanto che, a essere brutali, potremmo dire che gli oltre 70.000 dipendenti americani di Chrysler in realtà reggono in piedi gli oltre 60.000 dipendenti della Fiat nel resto del mondo, sono 22.000 in Italia. Però, detto tutto questo, questa stratosferica cosa si fonda in realtà su 2 grandi pilastri, un aumento superiore al 20% del venduto annuale per Jeep, che è uno dei brand che tira di più di Chrysler in tutto il mondo, però capite che il 20% anno per 4 anni, più del 20%, è molto, moltissimo. Poi, per quello che riguarda l'Europa, la Fiat in Europa, praticamente stasi, perché nel 2018 si vende quanto ha venduto in Europa nel 2013, cioè 700.000 auto, di cui poco più di 300.000 in Italia, quindi nel resto dell'Europa, tranne l'Italia, la Fiat è poco più del 3% del mercato europeo. Comunque, ci si difende, ma non si fanno grandi cose. La Lancia sparisce, perché ieri Lancia non è mai stata citata, del resto uno dei marchi che tante volte Marchionne prometteva di rinvigorire, e si sono visti i risultati. E Alfa Romeo invece, miracolo, è la quinta volta che si annuncia il miracolo per Alfa Romeo, speriamo che sia la volta buona, perché Alfa Romeo passa da 70.000 e poco più unità vendute in tutta Europa a 400.000 nel 2018, 5 miliardi solo per Alfa Romeo, non si vende né l'Alfa Romeo né la Ferrari, e poi si aggiunge ritorno al 100% dell'utilizzo della capacità di tutti gli impianti in Italia, oggi siamo 50%, anzi meno del 50%, tutto quello che si fa in Italia, moltissime Jeep eccetera eccetera, visto che l'Europa non tirerà, la gran parte del segmento premium dove la Fiat Chrysler vuole fare i suoi utili, quindi più dei guadagni e sostenere anche poi gli investimenti, se si producono in Italia più di 200.000 si esporta nel resto del mondo. Tenete conto che Audi, Daimler eccetera eccetera fanno le auto del segmento premium che vendono in Cina e negli Stati Uniti, le fanno anche in Cina e negli Stati Uniti, non è che esportano dalla Germania. Però questi sono solo alcuni numeri buttati là, io mi taccio e d'ora in poi faccio brevissimo domande solo a Marco Cobianchi. Marco, che cosa ti è sembrato del piano, del nono piano in 10 anni annunciato ieri da Marchionne? La mia prima impressione è di stare ad ascoltare cose che avevo già sentito, perché in realtà in questo piano non ci sono delle novità clamorose da strapparsi i capelli. Ad esempio Alfa Romeo, come giustamente hai detto tu, Alfa Romeo è, nel 2010 aveva detto Marchionne che entro il 2014 avrebbe venduto 500.000 auto Alfa Romeo, l'anno dopo è sceso a 400.000, nel 2012 è sceso a 300.000, la realtà è che l'anno scorso ne ha vendute 75.000. E quindi il rilancio di Alfa Romeo, il segmento premium eccetera, è una cosa che è ovvia. Naturalmente c'è una novità al contrario, ad esempio, cioè che Fiat non esce più dal segmento C, cioè quello della Bravo, perché sono stati annunciati due nuove automobili di questo segmento, mentre Marchionne aveva detto che la Fiat sarebbe uscita, e diciamo che complessivamente ho visto i commenti non soltanto dei giornali di questa mattina, ma anche degli analisti, cioè quelli che erano là a Detroit ad ascoltare Marchionne, e hanno, molti di questi hanno addirittura alzato il target price di Fiat, alcuni addirittura 10,50. Questo significa che c'è qualche cosa che non funziona. Io penso che questo piano industriale, che è il nono in 10 anni, sia un po' un atto di fede, cioè qui o ci credi o non ci credi che Marchionne faccia quello che ha promesso di fare. Se si guarda la storia, la storia gioca contro Marchionne, perché degli 8 piani industriali precedenti io li ho guardati tutti abbastanza proprio col microscopio. Aveva promesso 64 nuovi modelli e ne ha realizzati 33, quindi la metà. Diciamo che forse probabilmente il mercato a questo punto sta a vedere, certo il titolo era cresciuto molto prima di questo piano industriale, però dico, secondo me è un atto di fede. Cioè bisogna crederci che l'Alfa Romeo da 75.000 passi a 400.000. Non è una cosa semplice. Mercedes, Audi, BMW ne vendono 1,5 milioni. Inoltre il marchio Alfa Romeo non è più quello che noi abbiamo nella testa, ci ricordiamo. Non è più un marchio davanti al quale Henry Ford si toglieva il cappello, come diceva lui. È un marchio che per molti anni è, insomma, un po' bivacchiato. Aspetta, abbiamo una breaking news. E grazie colleghi del giornale radio, qui di Radio 24, per la tempestività dell'informazione. Allora, dicevi, Marco, quando ti abbiamo interrotto? No, solo per concludere. Io penso che adesso però i politici non debbano mettere la testa sotto la sabbia come hanno sempre fatto di fronte alla Fiat. che è stata finanziata con i soldi pubblici durante questi 10 anni di Marchionne, allo stesso ritmo con cui è stata finanziata la Fiat negli anni precedenti di Marchionne. Qui ti interrompo per dire a chi ascolta che se comprate e leggete American Dream di Marco Cobianchi troverete in un capitolo elencati puntualissimamente tutti gli stanziamenti dei successivi governi negli anni di Marchionne a qualunque titolo, sostegno della ricerca, ammortizzatori sociali, eccetera, eccetera, che smentiscono, ripeto, smentiscono quello che Marchionne ha sempre detto in questi anni, di non avere più preso un euro pubblico, solo di cassa integrazione di oneri pubblici e di ammortizzatori sociali siamo a 1,7 miliardi, ma lì trovate milione per milione elencato tutto, e in più trovate anche tutti gli aiuti di diversi paesi, Argentina, Brasile, eccetera, che hanno stanziato altro che per la Fiat. Questo per essere precisi, non c'è nessuna posizione pregiudiziale da parte nostra, c'è solo il dovere di informarvi. Ecco, infatti ti ringrazio di questa precisazione. Io non ho, quando a volte mi dicono qual è la tua tesi, ecco, io non ho tesi, io ho solo conclusioni. Sono partito con una mentalità assolutamente laica, tant'è vero che per me Marchionne è un manager eccezionale, ha fatto cose che hanno del miracoloso. Ricordo che la Chrysler ci aveva provato, la Daimler a salvarla, ha perso 36 miliardi di dollari. Ecco, Marchionne ha fatto un miracolo. Detto questo, però, siccome io non faccio la geografo di Marchionne, bisogna anche vedere un po' come è andata. Allora, ieri è partita la sesta rottamazione. Okay? Negli ultimi 10 anni, quindi 6 anni, Marchionne l'ha passata con la rottamazione. Questo soltanto per parlare degli aiuti pubblici in giro per il mondo. E poi c'è un punto molto importante, secondo me, che insomma nessuno ne parla. L'internazionalizzazione della Fiat non c'è stata. Ha perso e non è riuscito. Poi si può discutere sulle responsabilità, per me non sono, secondo me non sono tutte sue. No, anche perché ha ereditato scelte sbagliate da Fresco prima di Fresco, insomma. Assolutamente. Quindi dopo Ghidella. Però i tre mercati principali del mondo nel settore automotive, cioè Cina, India e Russia, la Fiat non c'è. Esatto. E qui purtroppo questi sono i fatti, non è che bisogna essere, come dire, anti-Marchionne, anzi, però i fatti sono questi. Ora, i politici italiani a questo punto dovrebbero, secondo me, smetterla di dire che va tutto bene, madama la marchesa, perché non si può più pensare di tenere aperte 5 fabbriche in Italia, che possono essere 5 o 6, dipende da come si conta, con cassa integrazione, aiuti allo sviluppo, aiuti alla ricerca, soldi a fondo perduto. Non è più così. Cioè, adesso quando Marchionne dice questo è un nuovo libro, ha ragione, questo è un nuovo libro. Il governo italiano deve decidere che cosa fare con la situazione Fiat, che non è una situazione così rosea. Poi, naturalmente, se i governi, i vari ministri credono, fanno questo atto di fede nei confronti del piano industriale di Marchionne, uno Stato non si governa con gli atti di fede. Ecco, lo so, però poi è sempre andata avanti così. Io da tanti anni dico che bisognerebbe aprire ai concorrenti in Italia, trattando anche con Fiat sulla cessione di pezzi per questo, però io naturalmente su questo vengo spernacchiato, perché la grande stampa poi dice ogni volta il miracoloso piano, si torna al 100%, si torna al 100% di Mirafiori. Ci sono cresciuto di fronte, ai miei tempi, all'inizio degli anni 60, ci lavoravano 70.000 persone. Ricorda un po' Mirafiori com'è adesso, Marco? Si lavora 3 giorni al mese. Ecco, e quanti? Ma poco più di 1.000. Ecco, esattamente, per essere chiari. Comunque, abbiamo le informazioni stradali. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornate in diretta alle 16:49:45. Stiamo parlando del nono piano industriale lanciato in 10 anni da Sergio Marchionne ieri, con uno spirito un po' diverso da quello prevalente sui media italiani, e con noi Marco Cobianchi, che ha scritto un libro che molto vi caldeggio di comprare e leggere. Si chiama American Dream, così Marchionne ha salvato la Chrysler e ucciso la Fiat. Lo trovate nelle librerie tra 2 giorni. Chiare Lettere editore. Sentiamo rapidissimamente 2 nostri ascoltatori. Cominciamo con Samuele, che ci chiama da Bologna. Samuele, come la pensi? Salve, buonasera a tutti. Beh, diciamo, partiamo anche dal fondo, nel senso che comunque non possiamo competere in certi mercati dove o va il lusso, e quindi le auto di lusso non le facciamo noi più, non le facciamo più in Italia, le fanno i tedeschi, o le auto popolari che se le fanno già loro dentro a prezzi super competitivi rispetto alle nostre, perciò non potremo mai esportare un'auto popolare, perché ricordiamo che la Fiat fa auto popolari ormai. Sì. Secondo, Io vorrei vedere dove sono questi investimenti in ricerca, perché la Fiat non produce ibridi, non ci sono elettrici, ed è il mercato nuovo su cui ci dovrebbe espandere con utilitarie a basso consumo energetico che facciano veramente la differenza, dove gli altri lasciano andare, perché se la BMW si può permettere di presentare un utilitario ibrida da 40.000 euro, io penso che... Tu lo sai che storicamente, Samuele, la Fiat ha fatto su le propulsioni ibride eccetera, sempre un'altra scelta, non ha mai creduto a quella elettrica, ha fatto quella del metano, ha fatto quella delle biomasse nel Sud America eccetera eccetera, e sai, recuperare l'ibrido dopo che non hai mai fatto quello elettrico è praticamente oggi una rivoluzione persa da questo punto di vista. Sentiamo Paolo da Pavia come la pensa. Paolo. Sì, buonasera. Sì. Io la voglio vedere solo dal punto di vista aziendale, quindi non politico. Certo. Non no, aziendale. Parte tutto quello. Azienda e mercato, giusto. Io faccio un po' d'anni ormai, sviluppo di aziende abbastanza grandi. Io vedo delle cose molto positive, c'è un'azienda sana ormai, dei marchi comunque conosciuti, non voglio dire fortissimi, ma sicuramente conosciuti, e un momento che probabilmente è più positivo degli ultimi anni. Secondo me, se Marchionne dietro ha i capitali per fare questo sviluppo in 4 anni, non quelli di borsa, capitali che trovi comunque in altri modi, e se ha davvero dei progetti di macchine, dei progetti di innovazione, di tecnologia, secondo me lo può fare. Poi magari i numeri non saranno quelli, saranno certo, però capisci che i se che ci hai detto hanno il loro peso alla luce del passato, perché se tieni conto solo degli oneri finanziari annuali, dell'indebitamento che tra banche e soprattutto quello obbligazionario è di 23 rotti miliardi, e ogni anno sono un po' meno di 2 miliardi solo di oneri finanziari, è vero che hanno anche poi 10 miliardi di liquidità, ma resta un debito molto forte in termini netti, quindi forse anche per questo oggi l'azione si interroga, ma tutti questi miliardi da dove vengono? Però, dice Paolo, molto migliorato, certo, il world class manufacturing negli stabilimenti è una cosa strepitosa che non si era mai vista, Marco. Il VCM e insieme all'Ergo UAS sono state le due innovazioni di processo produttivo straordinarie. L'Ergo UAS è quello poi che ha provocato il referendum di Pomigliano. Su questo referendum di Pomigliano, ricordiamoci, se non fosse stato vinto dai sì, ricordiamo che si trattava di dire sì o no a una modifica del contratto nazionale di lavoro e quindi il distacco della fabbrica di Pomigliano in un'altra società. Ecco, se non avessero vinto i sì, oggi non staremmo qui a parlare di Fiat. Certo, certo. Ecco, in quel caso di Pomigliano, chi ha fatto campagna elettorale per il no all'accordo di Pomigliano ha sbagliato, lo dicono i numeri, non è un'opinione. Oggi a Pomigliano, grazie a quel sì, lavorano 300 persone in più rispetto a quelle che lavoravano prima del referendum, e guadagnano anche più di quello che guadagnavano prima. Questo è un punto molto importante, perché bisogna dare atto ai sindacati italiani, poi se vogliamo possiamo parlare anche di quelli americani, ma i sindacati italiani in questo caso sono stati molto responsabili. Quando maggioritariamente hanno scelto il sì. Maggioritariamente hanno scelto il sì, e per fortuna i dipendenti li hanno seguiti e hanno votato sì, perché l'alternativa per quegli lavoratori era la camorra, questo è giusto ricordarlo. Una nostra ascoltatrice ci manda un sms che vi voglio leggere. Per Oscar, non tutti a Mirafiori lavorano 3 giorni al mese come avete ricordato, mio marito in quanto sindacalista di base non è mai più stato chiamato da 3 anni. Io posso abbracciarla, magari non sarei d'accordo con come la pensa suo marito, però qui ci sono prassi discriminanti, tenete conto anche di tutte le volte nel contenzioso giudiziario che è esploso in questi anni, Fiat è stata poi obbligata a reintegrare la gente discriminata, secondo il giudice, non secondo me. Io avrei voglia di continuare a parlarne, quindi non escludo che noi continueremo a parlarne richiamando Marco, magari dopo qualche settimana che è uscito il suo libro, perché questa cosa di Fiat è una cosa nazionale, è una cosa che per l'indotto è quello che è capitato nell'indotto, significa centinaia di migliaia di posti di lavoro, la promessa di tornare al 100% per me non credibile, stante le loro proiezioni del mercato europeo, e io non credo a percentuali così elevate di produzione in Italia esportabili negli altri continenti. Detto tutto questo, è un problema troppo rilevante per lasciarlo solo alle prime poche ore, a quel poco che ho fatto dire a Marco Cobbi anche oggi. Quindi Marco, promettimi che torni? Promesso. Perfetto, allora comprate American Dream, continuate su Radio 24, appuntamento con me a domani.